vogliono questi? Sì, no, ditegli di abbassare la musica per piacere. Chi sono? Irlandesi? E cosa vogliono? No, no, no, no, no. Per il 23 siamo a posto. Per la festa della radio abbiamo già il gruppo che suona. Siamo a posto? Sì, vi sento che suonate bene, ma siamo a posto. Il 23 ci sono già i Tequila Tank. Sì, sì, va bene. Ok. Mi dispiace se siete arrivati apposta dall'Irlanda. Sì, però abbassate la musica per piacere. State calmini per piacere. Mamma mia, questi. Ma chi li ha fatti entrare? La caccia al tesoro? Sì, potete, ecco, al limite potete iscrivervi alla caccia al tesoro. Siete giusto in 6? Sì, a squadre, bene, sì, sì, sì. Potete farlo, sì. Se volete potete iscrivervi adesso, certo. O alla mattina, comunque alla mattina potete sempre fare... Piano, piano, piano. Giù dal tavolo per piacere. No, il tavolo no. Questi sono scatenati. Scenda, scenda dal tavolo per favore. Sì, ballate anche bene. Sì, oh mamma, scenda giù. Scenda. Sì, va bene, vi scrivo. Sì, vi scrivo. Vi scrivo alla caccia al tesoro. Ci siete. Al limite dopo cena, dopo le 9 potete suonare e cantare per col karaoke, insomma. Sì, e vincerete voi. Sì, se siete così bravi, va bene. Però state calmi, eh. Ecco, sì. Ma si capisse pure qualcosa, Ormai li lasciamo finire, perché questi ormai non li ferma più nessuno. Sì, guardi che sfasciano tutto. Sì, ma chi li ha fatti entrare? Sì, il 23 è la festa. Va bene. Avete degli altri amici irlandesi? Va bene, li aspettiamo, va bene. Ecco, ma non sono come voi, più tranquilli. Ah, meno male, più tranquilli, sì. Ok, va bene. Oh, guarda quello. Come balla, oh, e quello beve. Ecco, si può anche mangiare e bere lì alla festa, sì. Dopo le 9 potete farlo. Bene. Moderati però, perché questi qua sono già rovinati alla mattina. Guardali lì. Ecco, facciamoli pure il concertino finale. Va bene, allora il 23, festa della radio, festa di radio proposta, tutti qua a Brugherio. Va bene, facciamo un gemellaggio con l'Irlanda. Ok.